Nuovi controlli alla clinica La Quiete di Udine che ribatte: siamo in regola. Per la politica tappe forzate, il disegno di legge comincia l'iter alle 19 al Senato. I radicali promettono più di 1000 emendamenti. Auto in crisi, la giapponese Nissan taglia 20.000 posti di lavoro. L'Europa corre ai ripari e pensa ad un vertice straordinario. 6 anni la condanna per l'immobiliarista romano Danilo Coppola, giudicato colpevole per il crack da 13 milioni della Micop. Violenza sessuale tra giovanissimi, a Brescia per lo stupro su una 14enne in carcere finiscono 4 minori. Il ministro Maroni a Radio 24 rilancia le ronde. Forse lo avrebbero impedito, dice. 130 vittime, una strage del fuoco in Australia, più di 30 grandi incendi continuano a divampare fuori controllo e si cercano i piromani. Il passante di Mestre alla prova dei fatti, niente code questa mattina dopo anni. Gere Salarge, buongiorno da Alessio Maurizi. E buongiorno da Anna Migliorati. Dunque, questa sera alle 19 il Senato è convocato per esaminare, forse votare già in serata se ci saranno i tempi, il disegno di legge del governo che, come sapete, ha proposto di vietare la sospensione dell'alimentazione in casi come quello di Eluana Englaro. Il provvedimento naturalmente poi dovrebbe andare alla Camera e per l'approvazione definitiva. E quindi decisamente tappe forzate per la politica. Questo mentre a Udine proseguono i controlli nella clinica La Quiete. Un tema che resta in primo piano, e allora da qui partiamo anche noi oggi con Andrea Viali. Buongiorno, cosa sta succedendo a Udine? Buongiorno Anna, sta succedendo che questa mattina la regione Friuli ha disposto nuovi accertamenti urgenti nella casa di riposo La Quiete, dove sappiamo che è ricoverata da una settimana Eluana Englaro, per stabilire se la struttura, per stabilire una volta per tutte se la struttura sia o meno idonea ad accogliere un malato terminale, anche per verificare le anomalie che sarebbero emerse nei controlli eseguiti nei giorni scorsi anche dai carabinieri dei NAS. I vertici della casa di riposo stamattina hanno di nuovo assicurato che la struttura è a norma ed è idonea all'applicazione del protocollo di distacco dell'alimentazione al quale è stata sottoposta Eluana in queste ore. Per fare chiarezza, la procura di Udine potrebbe comunque ordinare il sequestro preventivo della stanza nella quale si trova Eluana, ma su questo è intervenuto stamattina il legale della famiglia Englaro, l'avvocato Campelis, che ha tra l'altro incontrato il procuratore di Udine, Carli. Sentiamo l'avvocato. Il procuratore agirà prudentemente, seguendo le indicazioni della Procura Generale e valutando tutti gli elementi acquisiti anche tramite i suoi consulenti. Ma non è che la stanza è sotto sequestro? Attualmente non esiste nessun provvedimento cautelare, attualmente non esiste niente. Andrea, invece sul fronte, come dicevamo, politico ma soprattutto parlamentare, quali potrebbero essere le prossime mosse, il calendario? Allora, ci si attende a minuti, è riunita in questi minuti la riunione dei capigruppo del Senato che dovrà stabilire i tempi e i modi del voto sul disegno di legge presentato dal governo per impedire che ad Eluana Englaro venga sospesa l'alimentazione. I radicali sempre stamattina hanno annunciato che a Palazzo Madama faranno ostruzionismo, presenteranno oltre 1000 emendamenti per bloccare l'approvazione di questo provvedimento. L'aula di Palazzo Madama è stata comunque convocata per le 19, la maggioranza punta ad approvare la legge al Senato ovviamente entro oggi, non è chiaro se il governo presenterà o meno la fiducia, cosa che in realtà potrebbe anche allungare i tempi di un'eventuale approvazione. La legge poi comunque dovrà passare all'esame della Camera per il via libera definitivo, che comunque difficilmente potrà arrivare prima della giornata di giovedì. Per il momento è tutto, linea allo studio. Grazie, proprio su tempi e modi della politica il commento del direttore del Sole 24 Ore Ferruccio De Bortoli. L'asterisco di Ferruccio De Bortoli. L'asterisco di oggi è un po' particolare, non è un'opinione, solo un pensiero, un moto di solidarietà rivolto al padre di Eluana. Questa vicenda così dolorosa lacera le coscienze. Pochi credo abbiano delle autentiche certezze, anche tra coloro che hanno il dono della fede. E il dubbio se quella di Eluana possa ancora chiamarsi vita, per vari anche chi pensa, ed io tra questi, che la vita vada salvaguardata fino all'ultimo estremo ragionevole tentativo. Ma chi più del padre ha avuto e ha a cuore la vita di una figlia che ha accudito amorevolmente per 17 lunghi anni di malattia? Chi più di lui? Perché dubitare della parola di quel padre? Chi più di lui può interpretare la volontà di Eluana? E perché trattarlo alla stregua di un testimone insincero o addirittura di un omicida? Nella sofferenza di quel padre c'è anche la sofferenza della figlia. Eluana è diventato ormai un simbolo e dovremmo domandarci se per molti che, da una parte e dall'altra, gridano il suo nome, sia ancora una persona. Per suo padre Beppino certamente lo è, e lo sarà sempre, perché lui, a differenza degli altri, non la dimenticherà. Buona giornata. Questo dunque Ferruccio De Bortoli, fin qua la vicenda di Eluana Englaro. E l'altra questione che agita le acque del Parlamento è il disegno di legge per la sicurezza. Un tema tornato in primo piano per vicende di cronache è proprio quello della violenza alle donne. E questa mattina è stato ospite a Radio 24 il ministro dell'Interno Roberto Maroni, che a Parliamo con l'Elefante ha rilanciato un tema caro alla Lega, vale a dire le ronde. Sentiamolo. Se ci fossero state queste ronde là dove ci sono stati i recenti casi di stupro, forse questi stupri non sarebbero avvenuti. Sì. Ci sono esperienze molto interessanti da decenni a Milano, per esempio, di cittadini che girano con una divisa, non leghisti, che girano con una divisa, che fanno controllo del territorio e fanno anche assistenza se qualcuno sta male, un clochard o cose del genere. Bene, anche qui non si dice che nel nostro emendamento queste, tra virgolette, ronde hanno anche questo scopo, quello di prestare la prima assistenza se trovano qualcuno che sta male. A me sembra un fatto di grande civiltà giuridica se i cittadini vengono coinvolti con regole chiare e precise sotto il controllo del sindaco, che, lo ricordo a chi non lo sapesse, nei comuni è l'autorità di pubblica sicurezza laddove non c'è un presidio di polizia e carabinieri. Il ministro Maroni al microfono e Giuliano Ferrara questa mattina a Parliamo con l'Elefante. Ma dicevamo di casi di cronaca di violenza alle donne gravissimi, ce ne sono stati purtroppo di nuovi proprio in queste ultime ore. Allora, Brescia e Frosinone, cominciamo con Brescia. Una violenza orrenda, modalità barbare, a scriverlo nell'ordinanza che ha portato in carcere 4 minorenni di età compresa tra 14 e 16 anni è il GIP del Tribunale dei Minori di Brescia. Teatro della violenza, un rustico in ristrutturazione, la zona è quella di Sabbio Chiese, Alta Valle Sabbia. Una festa tra ragazzi, alcol a fiumi, poi il branco prende di mira una ragazzina e la violenta. Sevizie terribili anche usando il manico di un badile. È il 7 dicembre scorso. La ragazzina, 14enne, viene soccorsa da due amiche, è in stato di semi-incoscienza, ubriaca, racconta tutto a un cugino, poi a una psicologa. Solo 12 giorni più tardi mette nero su bianco la denuncia. Nel frattempo tutto prosegue come se nulla fosse accaduto. Il genitore che aveva messo a disposizione il rustico, pur sapendo della violenza, non va dai carabinieri, anzi il sabato successivo permette una nuova festa a base di superalcolici dove ci sono sia la vittima che i carnefici. Gli investigatori faticano a risalire i responsabili, 4 studenti della zona, per loro scatta l'accusa di violenza sessuale di gruppo aggravata. Un quinto ragazzino non è perseguibile perché non ancora 14enne. Quello che colpì, dice il magistrato, è che tutti loro ritenevano quanto accaduto assolutamente normale. Ragazzi che, secondo il GIP, avevano perso i più elementari valori morali, abituati a rapporti promiscui, a un uso smodato dell'alcol. Domani a Brescia gli interrogatori di convalida dei fermi. Giovanni Capuano, GR24, Sole 24 Ore, Brescia. E l'altro episodio di violenza, altrettanto inquietante, ieri sera a Monte San Giovanni Campano, vicino a Frosinone. Sono stati arrestati 2 dei 4 aggressori, anche qui di una giovanissima, una 15enne rumena, che li aveva denunciati per tentato stupro. Uno è il suo ex ragazzo, anche lui rumeno, l'altro un complice straniero. I carabinieri li hanno rintracciati grazie all'identikit fornito dalla ragazza. Lei era stata trovata sul ciglio della strada, coi vestiti a brandelli, mentre fuggiva dagli aggressori, scampando così al tentato stupro. In stato di shock, aveva raccontato che era in compagnia del suo attuale compagno quando la coppia è stata cerchiata da 4 individui. Sentiamo il comandante dei carabinieri di Sora. Un albanese e un rumeno di 21-24 anni, appena giunti al centro del paese, sono smontati dalla macchina, hanno malmenato l'amico con cui si trovava adesso la ragazza e di peso l'hanno caricata sulla loro autovettura. Abbiamo arrestato gli stranieri, l'accusa naturalmente è sequestro di persona. A questa accusa si aggiunge quella di tentata violenza sessuale. I carabinieri sono alla ricerca di altri 2 complici. Nicola Accardo, GR24, Il Sole 24 Ore. È stato uno dei protagonisti dell'epoca dei furbetti del quartierino. Parliamo dell'immobiliarista romano Danilo Coppola, che è stato condannato a 6 anni di reclusione, così la decisione della seconda sezione penale del Tribunale di Roma. Raffaella Calanda ci racconta tutto, buongiorno. Buongiorno, prima condanna per Danilo Coppola. Arriva dunque alla prima sentenza la vicenda giudiziaria di uno dei protagonisti della stagione delle scalate bancarie. 6 anni è la pena stabilita dal Tribunale di Roma per l'immobiliarista condannato per il fallimento da 13 milioni della sua Micop, una delle sue società. Condannata insieme a lui la sua ex commercialista Daniela Candeloro, mentre la Corte assolde gli altri 5 imputati, tra cui il cognato di Stefano Ricucci, Bellocchi. Col volto teso e senza un commento esce dall'aula Coppola, che durante i mesi della detenzione e poi dei domiciliari scanditi anche da una fuga dall'ospedale aveva avuto parole dure contro gli inquirenti di questa inchiesta, che aveva ricostruito un sistema di scatole cinesi intestati a prestanomi come l'ex portiere di un suo albergo o un cittadino polacco. Sotto la lente dei magistrati romani poi sono finite anche altre società della galassia Coppola, indagato anche nell'inchiesta milanese per la scalata Anton Veneta, che è attualmente a dibattimento. Prima dell'estate dovrebbe terminare anche l'udienza preliminare per la fallita scalata di Unipol su BNL. 4 anni dopo, dunque, la stagione delle scalate bancarie arriva in tutti i suoi rivoli al primo vaglio dei giudici. E per ora è tutto. Grazie a Raffaella Calandra. Andiamo all'estero ora. 130 vittime morte tra le fiamme. È davvero un bilancio impressionante quello degli incendi che ormai da giorni devastano il sud-est dell'Australia. Allora, proprio in Australia andiamo da Linda Di Virgilio, collega di Rete Italia, radio in lingua italiana Melbourne. Buongiorno, anzi per te buonasera. Buongiorno Anna, veniamo agli ultimissimi qui da Melbourne. Sono ancora 28 gli incendi che continuano a bruciare senza controllo nella zona sud-orientale dello stato del Victoria e il premier John Brambi avverte i cittadini di prepararsi al peggio, perché dice il numero delle vittime aumenterà drasticamente prima della fine di questa settimana. E sempre il premier ha confermato qualche ora fa che verrà condotta un'indagine governativa per far luce sulle cause degli incendi. Verranno esaminate anche le strategie adottate dal governo in queste situazioni di emergenza e le politiche del governo sulle precauzioni da adottare in caso di eventi simili da parte dei cittadini. Molti infatti sono morti mentre cercavano di proteggere le proprie abitazioni dalle fiamme. Il numero dei decessi è ora attestato a 134, 750 le case distrutte, intere cittadine rase a suolo e 33.000 gli ettari di territorio bruciati. È uno scenario infernale quello che si presenta agli agenti della scientifica, provenienti anche da altri stati, impegnati nel processo di identificazione delle vittime. Collaborano con loro anche i militari dell'esercito. La Polizia Federale Australiana è impegnata anche nelle indagini, visto che quest'oggi è stato confermato che molte aree devastate sono trattate come scene di reato per la concreta possibilità che gli incendi siano stati di origine dolosa. Il primo ministro Kevin Rudd parla di omicidio di massa e le autorità hanno promesso che chi verrà riconosciuto responsabile di tali azioni verrà accusato di pluriomicidio. Tanti feriti ricoverati nei vari ospedali statali, circa 500, alcuni di loro in gravi condizioni, che hanno riportato ustioni gravi in almeno il 30-50% del corpo. I dottori che hanno curato i feriti degli attentati terroristici di Bali hanno dichiarato che questo scenario è peggiore. Da Melbourne è tutto, a voi la linea. E grazie a Linda Di Virgilio. Siamo quasi alla pausa, adesso però tiriamo un po' il fiato. Rilassiamoci un po'. Ci rilassiamo un po', andiamo negli Stati Uniti, dove messa a dura prova da internet e anche dalla recessione, l'industria discografica americana però ha festeggiato ieri uno dei suoi riti, i Grammy Awards. Sentiamo com'è andata. Nella musica ci sono solide certezze. Lo confermano i Grammy Awards, gli Oscar americani della canzone. And the Grammy for Album of the Year goes to... And the Grammy goes to... Raising Sand, Robert Plant and Alison Krauss. Please read this letter, Alison Krauss and Robert Plant. A trionfare nell'ultima edizione il vecchio leone Robert Plant, l'ex leader dei Led Zeppelin, insieme alla regina americana della country music Alison Krauss, si è portato a casa ben 5 statuette, tra cui quella per l'album dell'anno, Raising Sand, un disco ricco di ballate folk e di pezzi rhythm and blues. Song of the year, ladies and gentlemen, this is Coldplay. È andata bene anche ai Coldplay, con 3 statuette, tra cui quella per la miglior canzone dell'anno, Viva la Vida. Rivelazione dell'anno, la britannica Adele. Ma a far parlare di sé è stata soprattutto la bellissima Rihanna, che doveva aprire lo show e ha dato forfè. Il suo compagno, il cantante Chris Brown, nominato 2 volte, è stato accusato di percosse ai danni di una donna non meglio identificata dopo una lite scoppiata nella sua auto domenica mattina. La donna aggredita sarebbe proprio la cantante. Insomma, cronaca insieme alla musica, così come per un'altra star americana. I would like to thank my family in heaven and those who are here today. I was out in the cold. Dedico questo premio alla mia famiglia in paradiso e a chi è ancora qui, ha detto Jennifer Hudson, premiata per il miglior album Rhythm and Blues. L'anno scorso sua mamma, suo fratello e il suo nipotino sono rimasti uccisi in una sparatoria. Il cognato resta sospettato per l'omicidio. Marta Cagnola, GR24, Il Sole 24 Ore. 13:19 minuti, le notizie di oggi extra large. Sono scattati anche gli accertamenti disposti dalla regione Friuli Venezia Giulia sulle presunte anomalie amministrative rilevate dai NAS nella clinica La Quiete di Udine, dove è ricoverata Eluana Englaro. La procura esamina la possibilità di sequestrare un'ala della struttura. Le nostre stanze sono in regola, risponde la casa di riposo, così il legale della famiglia Giuseppe Campeis. Il procuratore agirà prudentemente, seguendo le indicazioni della procura generale e valutando tutti gli elementi acquisiti anche tramite i suoi consulenti. Ma non è che la stanza è sotto sequestro? Attualmente non esiste nessun provvedimento cautelare, attualmente non esiste niente. Intanto questa sera alle 19 il Senato è convocato per esaminare il disegno di legge del governo. I radicali presenteranno, dicono, più di 1000 emendamenti. Nel Partito Democratico Veltroni lascia libertà di coscienza, ma attacca. Il Presidente del Consiglio ha voluto fin dall'inizio trasformare questa vicenda, questo dramma di una ragazza, in uno scontro politico istituzionale, con l'obiettivo di creare tensione tra il Quirinale e Palazzo Chigi e con l'obiettivo persino di mettere in discussione la Costituzione. E così il capogruppo del PDL al Senato, Gasparri. Io credo che in queste ore si debbano abbassare i toni, si debba andare comunque a una decisione, perché i tempi delle decisioni del Parlamento sono decisivi rispetto alla vita o alla non vita. Una polemica ulteriore potrebbe offrire pretesti per un allungamento di tempi. Condannato a 6 anni di reclusione l'immobiliarista romano Danilo Coppola per il fallimento di una sua società, la Micop. Oltre a Coppola è stata condannata a 4 anni di reclusione Daniela Candeloro, commercialista della società. Un crack da 13 milioni di euro avvenuto alla fine del 2006. Crisi dell'auto, questa sera l'Europa ne discuterà a Bruxelles. La presidenza di turno ceca dell'Unione prepara una riunione straordinaria, un consiglio informale dei 27, prima del Consiglio europeo previsto per metà marzo. E intanto la Nissan ha annunciato una maxi ristrutturazione nella quale prevede il taglio di 20.000 posti di lavoro. Il gruppo giapponese stima una perdita netta di 2,2 miliardi di euro. Il treno ad alta velocità punta al 60% dei passeggeri sulla tratta Milano-Roma, così dice il presidente delle Ferrovie dello Stato, Innocenzo Cipolletta, a margine della Mobility Conference a Milano. Ma in linea di principio noi pensiamo che noi andremo verso il 60% della totale della massa dei passeggeri, però io aspetto di fare questi conti anche quando la recessione sarà terminata, perché credo che a questo momento ci saranno molti più passeggeri e sarà importante vederla a quel momento là. Un'autobomba è esplosa questa mattina a Madrid senza provocare feriti. È accaduto attorno alle 9 in un quartiere orientale, dopo che una telefonata aveva avvertito la Croce Rossa della presenza dell'autobomba. La polizia ha subito isolato il quartiere. Secondo la radio, la polizia ritiene si tratti di un'azione ETA a 3 settimane dalle elezioni regionali nei Paesi Baschi. Stupro di gruppo su una ragazzina di 14 anni è accaduto in dicembre durante una festa in cui si era bevuto parecchio alcol nella zona di Sabbio Chiese in Valsabbia, nel Bresciano. Gli arrestati hanno età comprese tra i 14 e i 16 anni. Il procuratore del Tribunale dei Minori di Brescia, Emilio Quaranta. Noi abbiamo oggi una società in cui tutto è concesso. E l'uso dell'alcol è la nuova droga legale, la droga legale che uccide. Ragazzi che non riescono a rendersi conto. Tanto è vero che la settimana successiva sono andati regolarmente alla festa, ad un'altra festa organizzata nello stesso luogo. Eh sì, perché è il principio di Sherlock Holmes secondo cui si torna sempre sul luogo del delitto. E ora andiamo in Sardegna, ci occupiamo delle prossime elezioni, una tornata regionale ma che sta diventando sempre di più una partita anche nazionale. Qual è la posta in gioco? Soprattutto quali sono le sfide che aspettano l'isola dopo appunto le elezioni del 15 e 16 febbraio? Cristina Carpinelli è andata a chiederlo a Ugo Cappellacci, candidato alla presidenza della regione per il PDL, e a Renato Soru, candidato per il PD. Soru lo sentiremo domani, oggi cominciamo da Cappellacci. Sono Sardegna abbiamo 190.000 disoccupati su una popolazione di 1.600.000 abitanti. È necessario assumere dei provvedimenti immediati, ad alcuni li assumeremo nei primi 100 giorni di governo, per dare una possibilità concreta a tutta questa gente, a questi giovani e meno giovani, di trovare lavoro. Ma come? Prego. Come dico? Abbiamo previsto un bonus che verrà riconosciuto ad ogni disoccupato, un bonus di 5.000 euro che verrà riconosciuto per la durata di 5 anni, potrà essere speso presso il datore di lavoro che assume il disoccupato. Abbiamo previsto dei meccanismi di defiscalizzazione per le imprese, per poter consentire alle imprese di crescere e di espandere la propria attività. Abbiamo previsto un piano importante di rivisitazione della normativa attuale, perché ci sono una serie di norme che hanno bloccato totalmente lo sviluppo della Sardegna, bisogna rivederle in modo sereno ma nello stesso tempo critico per far ripartire l'economia. Abbiamo un piano di interventi strutturali che consentirà a quest'isola, grazie al riconoscimento della condizione di insularità, di facilitare gli scambi per le imprese, di dare una spinta all'economia, e questo sicuramente va nel senso della possibilità di creare occupazione. Tutto questo però, le chiedo, la questione della tutela ambientale dove finisce, dove la mettiamo, come difendiamo la Sardegna? Noi vogliamo difendere la Sardegna perché siamo convinti del fatto che il territorio sia il più grande patrimonio che possediamo. Quindi è una bugia, una mistificazione pensare che il centrodestra abbia in mente di cementificare. Quindi questo significa che non toccherete i parchi e le aree protette naturali interne alla Sardegna? Non si può pensare di tutelare il territorio portando via dal territorio l'uomo. Devono convivere le due cose, si può andare verso lo sviluppo sostenibile che è rispettoso dell'ambiente. Le faccio una domanda invece sul perché, secondo lei, le elezioni elettorali in Sardegna stanno diventando così importanti a livello nazionale? Secondo lei che partita si sta giocando veramente? La partita l'ha giocata chi, dimettendosi, sta pensando di fare una scalata a posizioni nazionali, e penso che Soru abbia fatto bene ad andare a Bologna, a Torino, dove è andato, perché aveva certamente necessità di chiedere scusa agli emigrati di alcune tasse che ha imposto, quali la tassa sull'uso, sulla casa. Lei non l'avrebbe mai messa quella tassa? No, io avrei in mente di incentivare e pagare chi decide di venire in Sardegna. La Sardegna è una terra meravigliosa, i sardi sono gente ospitale. Vogliamo vivere del turismo perché abbiamo un patrimonio veramente straordinario. Credo che si debba incentivare la gente a venire, non disincentivarla. Senta, cosa pensa di Berlusconi? Qualcuno dice che le sta un po' rubando la scena, che sta esagerando prendendo parte a questa campagna elettorale in maniera così forte. Dicono che mi ruba la scena e che io non ho voce e che non parlo. Valuti lei, io non so se la registrazione è venuta bene. Nella realtà vera c'è un governo che è molto attento ai temi della Sardegna, non vicino a Ugo Capellacci, ma vicino alla Sardegna, che è una cosa molto diversa. Perché non ha mai accettato un confronto TV o radio diretto con il suo avversario Soru? Guardi, è una falsità, le dico solo che ieri io sono andato a una tribuna elettorale della RAI, alla quale mi avevano detto che c'erano 5 partecipanti, cioè tutti i candidati, e con mia grande sorpresa non ho trovato Soru, il candidato così ansioso di confrontarsi con me. Adesso parliamo di infrastrutture, ce n'è una che è stata realizzata dopo una lunghissima attesa, parliamo del passante di Mestre che è stato inaugurato ieri, un tracciato di una trentina di chilometri appena, che però dovrebbe cambiare la vita di tutti quelli che utilizzano l'autostrada Milano-Trieste nel tratto intorno a Venezia. Silvia Menetto, buongiorno. E in effetti credo che proprio la cambierà la vita a moltissimi. Com'è di noi, andata? A moltissime persone che appunto usavano la tangenziale di Mestre come snodo fondamentale fra i traffici est e ovest. Questa mattina c'era il cartellone luminoso che accoglieva gli automobilisti con benvenuti nel passante. Da Treviso a Venezia 2,20 euro, l'intero percorso da Padova Est fino a Cessalto 5,10 euro. E per il primo giorno la tangenziale di Mestre oggi non ha registrato code. Pensate che erano 170.000 i veicoli al giorno che fino a ieri la percorrevano di media, e già oggi questo picco si è abbattuto del 40-50%. Il 50% del traffico che si è spostato sul nuovo passante autostradale, e in prospettiva si pensa che la percentuale sia destinata ad aumentare. Il traffico pesante soprattutto è quello che è stato più contento di utilizzare il passante. Questa mattina i camionisti hanno mostrato di gradirlo in maniera particolare, perché la media delle ore di attesa in coda sulla tangenziale di Mestre era circa di 5 ore. Il nodo di Venezia quindi era diventato un incubo, adesso si sono mostrati tutti addirittura increduli di passare la tangenziale senza problemi, così come di attraversare il passante. Un vantaggio per tutta la filiera produttiva ovviamente, e la realizzazione del passante da sola porterà un incremento del PIL veneto dello 0,8%. Sentiamo l'assessore ai trasporti della Regione del Veneto, Renato Chisso. La CGIA di Mestre ha calcolato sui ritardi, sulla non realizzazione del passante, i costi in termini economici sembrano essere pari a circa 800 milioni l'anno. E siamo davvero riusciti a darvi allora una buona notizia, davvero grazie alla nostra Silva Menetto. Grazie a voi. Da una buona notizia ai consigli del nostro gastronauta Davide Paolini. Mezzogiorno di Cuoco oggi vi porta a Darzignano, in provincia di Vicenza, dove si trova un locale davvero unico. Unico perché? Perché nasce come macelleria dei fratelli Damini, ma piano piano si è sviluppato come negozio di gastronomia, come caffè, come angolo per prendere l'aperitivo, come salumeria. Ebbene, poi piano piano è diventato anche ristorante. Ebbene, è diventato ristorante, ma ristorante straordinario, perché i prodotti a base di carne, ovviamente avendo discendenze di macelleria da oltre 100 anni, questa famiglia sicuramente sceglie il meglio. E allora qui, se uno arriva a mezzogiorno, ma può sicuramente cenare anche la sera, può mangiare una serie di cose molto interessanti, a cominciare dalla battuta di carne cruda a coltello e poi ancora l'hamburger, il roast beef, ma si possono mangiare anche diversi primi di maccheroncini, ad esempio con condimento di verdure. Si chiamano Damini, ma Celleria Affini, Arzignano, in provincia di Vicenza. E c'è un aggiornamento che riguarda la vicenda di Eluana Englaro, il cammino parlamentare, il disegno di legge che il governo vuole incardinare. Avevamo sentito prima il nostro Andrea Viali, il voto era previsto per stasera, invece no, slitta, a quanto apprendiamo, a domani mattina. Per quanto riguarda il Senato, il voto alle 8:30, tra le 8:30 e le 9:30, il voto appunto al Senato sul DDL per vietare lo stop all'alimentazione in casi come quello di Eluana. 13:36 minuti, le notizie di oggi. Sono scattati anche gli accertamenti della Regione Friuli Venezia Giulia sulle presunte anomalie amministrative rilevate dai NAS nella clinica La Quiete di Udine, dove è ricoverata Eluana Englaro. La procura esamina la possibilità di sequestrare un'ala della struttura. Le nostre stanze sono in regola, risponde la casa di riposo. E intanto il voto al Senato sul disegno di legge del governo che vieta la sospensione dell'alimentazione è stato fissato entro le 9:30 di domattina. I radicali presenteranno più di 1000 emendamenti. Nel Partito Democratico Veltroni lascia libertà di coscienza, ma attacca. Il Presidente del Consiglio ha voluto fin dall'inizio trasformare questa vicenda, questo dramma di una ragazza, in uno scontro politico istituzionale, con l'obiettivo di creare tensione tra il Quirinale e Palazzo Chigi e con l'obiettivo persino di mettere in discussione la Costituzione. E così il capogruppo del PDL alla Camera, Gasparri. Io credo che in queste ore si debbano abbassare i toni, si debba andare comunque a una decisione, perché i tempi delle decisioni del Parlamento sono decisivi rispetto alla vita o alla non vita. Una polemica ulteriore potrebbe offrire pretesti per un allungamento di tempi. Danilo Coppola, condannato a 6 anni di reclusione per il fallimento di una sua società, la Micop. Oltre all'immobiliarista romano, è stata condannata a 4 anni di reclusione Daniela Candeloro, commercialista della società. Un crack da 13 milioni di euro avvenuto alla fine del 2006. La casa giapponese Nissan ha annunciato una maxi ristrutturazione nella quale prevede il taglio di 20.000 posti di lavoro. Stima una perdita netta di 2,2 miliardi di euro per la crisi e anche l'Europa pensa ad un vertice straordinario per l'auto. 130 vittime, ormai una strage quella provocata dagli incendi che stanno devastando il sud-est dell'Australia, devastati almeno 30.000 ettari di territorio e distrutte oltre 750 case e intere cittadine. Più di 30 grandi incendi continuano a divampare fuori controllo e si cercano i piromani. Nuovi episodi di violenza sessuale a Brescia, stupro di gruppo su una ragazzina di 14 anni, in carcere 4 ragazzi dai 14 ai 16 anni. Ieri altri 3 episodi di violenza a Monte San Giovanni Campano, in provincia di Frosinone, in provincia di Caserta e a Milano. E il ministro dell'Interno Maroni a Radio 24 dice: forse con le ronde non sarebbero avvenuti. Poi precisa anche un'altra questione: non è stato introdotto alcun obbligo di denuncia dei clandestini da parte dei medici. Sentiamo. Noi abbiamo eliminato il divieto, il che non vuol dire introdurre l'obbligo. Un medico non vuole farlo, non lo fa assolutamente, ma io credo che punire un medico che voglia segnalare alla polizia un clandestino che magari viene a farsi curare perché è stato ferito da una ragazza che ha stuprato, ecco, mi pare francamente una follia. Israele domani al voto. Per la prima volta il premier uscente Olmert si pronuncia a favore della centrista Levini, ma avanza la destra. Netanyahu è il favorito e l'ultraconservatore Lieberman avanza, laburisti in rotta. Negli ultimi quattro mesi 130.000 posti di lavoro che si sono persi in Europa nei soli settori dell'industria e delle costruzioni. Queste cifre, specchio naturalmente della crisi economica, secondo le anticipazioni, sono contenute in un documento della Commissione europea che oggi dovrebbe essere esaminato e preso in considerazione durante la riunione dei ministri finanziari europei. In Asia la crisi di vittime ne ha già fatte molte, Toyota, Suzuki, e ora arriva anche un maxi piano di ristrutturazione per il colosso giapponese dell'auto Nissan. Per fronteggiare la crisi si pensa a un taglio di 20.000 posti di lavoro. La casa automobilistica giapponese Nissan taglierà quest'anno 20.000 posti di lavoro, dopo essere piombata in rosso per la prima volta da quando nel 1999 Carlos Ghosn divenne amministratore delegato. La forza dello yen e il calo delle vendite provocheranno infatti una perdita operativa di 180 miliardi di yen e una perdita netta di 265 miliardi di yen, quasi 2,5 miliardi di euro, nell'esercizio che si chiuderà a fine marzo. È stato lo stesso Ghosn, che è a capo anche della Renault, ad annunciare il riassetto e la sospensione del piano di sviluppo a medio termine della Nissan. Ghosn ha sottolineato che andranno aumentate le sinergie con la casa francese, che possiede il 44% della Nissan, e ha creato una nuova figura di Chief Recovery Officer. Soprannominato Cost Killer, il killer dei costi, il top manager della Nissan cercherà però di evitare licenziamenti in tronco. La sua idea è quella di negoziare con i sindacati e i governi di vari paesi il cosiddetto work sharing tra lavoratori. Lavorare meno, guadagnare meno, ma lavorare tutti, insomma, sul modello della settimana corta di 4 giorni già introdotta negli impianti americani. Così, ha detto Ghosn, quando verrà la sospirata ripresa, Nissan sarà pronta a crescere ancora. Stefano Carrer, GR24, Il Sole 24 Ore, Tokyo. È uno degli argomenti che si usano per spingere sulla ripresa economica è quello in Italia, soprattutto, ma anche non solo in Italia, delle infrastrutture. Se ne è parlato oggi al Mobility Conference di Milano, c'era la nostra Anna Marino, diversi gli interventi, gli ospiti importanti. Anna. Certo, in primo piano lancia un appello il presidente di Confindustria Emma Marcegaglia e indica l'urgenza e la priorità di investimenti nel settore delle infrastrutture. Sentiamo. Ci sono circa 4,5 miliardi di opere che non solo al nord, un po' in tutte i comuni possono partire subito, sono immediatamente cantierabili e oggi i comuni non le possono spendere perché c'è il vincolo del patto di stabilità. Quindi una riflessione su questo va fatta. Noi pensiamo, come ho detto, che i fondi stanziati ad oggi, che sono realmente spendibili nel 2009, sono troppo pochi per avere un effetto anticiclico, quindi chiediamo che da questo punto di vista si faccia una riflessione e si cerchi di investire di più. Certo, i tempi sono stretti, settimane, dice il presidente di Confindustria. A proposito di infrastrutture e tempi per realizzarle, poi è intervenuto il sottosegretario alle infrastrutture Roberto Castelli e ha detto che l'ipotesi commissariamento per l'Expo è solo un allarme, i soldi ci sono, le opere sono già iniziate. Per quanto riguarda le infrastrutture più in generale, il presidente del gruppo Ferrovie dello Stato, Innocenzo Cipolletta, ha detto che dopo aver avviato l'alta velocità ci sarà un provvedimento per modulare le tariffe sulla concorrenza del treno e aereo sulla tratta Milano-Roma. Ha detto che quando terminerà la crisi avremo il 60% dei passeggeri su questa tratta e ci sarà comunque spazio per il trasporto aereo. Ecco Anna, sentiamo proprio cosa ha detto Cipolletta. Noi stiamo mettendo su un modello che raccogliendo i dati che già oggi cominciamo ad avere delle frequenze sui nostri treni, noi formuleremo delle offerte di prezzo che sono modulate sulla giornata, sul tipo di giornata e sull'orario, in maniera tale da poter fornire servizi a prezzi molto più bassi per coloro che accettano di partire in certe ore della giornata, in certe giornate. Questo a noi consente di riempire i treni, ma per i passeggeri, soprattutto per la fascia di passeggeri non business, che quindi possono adattare la giornata e ora di partenza anche alle esigenze, potranno avere dei biglietti molto meno cari. E grazie ad Anna Marino. E adesso ci occupiamo di un compleanno, quello dei 70 anni di un celebre etichetta, un celebre locale, il Blue Note. Records is jazz history. Imagine what the world would be like if it didn't exist. La Blue Note ha fatto la storia del jazz. Per questa celebre casa discografica statunitense fondata a New York nel 1939 da Alfred Lion, un tedesco d'origine ebraica appassionato di jazz ed espatriato negli Stati Uniti al tempo del nazismo, e Francis Wolff, anche lui emigrato e amico d'infanzia di Lion, hanno inciso tutti i nomi più importanti della scena jazz, soprattutto negli anni 50 e 60. Il primo vero successo dell'etichetta fu una versione di Summertime eseguita dal sassofonista Sidney Bechet. Dopo di lui, una moltitudine di altri grandi del jazz. Da John Coltrane a Horace Silver, da Thelonious Monk ad Art Blakey, da Wayne Shorter ad Herbie Hancock, da Ornette Coleman a Wynton Marsalis, fino alla pianista crooner Nora Jones, figlia di Ravi Shankar, il sitarista indiano che suonò anche con i Beatles. Nora Jones nel 2001 con il suo album Come Away With Me ha ottenuto un successo planetario vendendo 30 milioni di copie e vincendo 5 Grammy Awards. 70 anni di vita per la Blue Note e 25 da quando è stata acquisita e rilanciata dalla EMI Records. Un doppio anniversario da festeggiare. Intanto con il tour della band The Blue Note 7, un settetto di talenti del jazz tra cui Ravi Coltrane, in 50 città americane, e a fine anno anche in Europa, ma anche con un doppio CD intitolato Mosaic, con 8 classici rivisitati e le loro versioni originali. Adriana Fracchia, GR24, Il Sole 24 Ore. E alle 13:46 minuti le notizie di oggi extra large. Sono scattati anche gli accertamenti della regione Friuli Venezia Giulia sulle presunte anomalie amministrative rilevate dai NAS nella clinica La Quiete di Udine, dove è ricoverata Eluana Englaro. La procura esamina la possibilità di sequestrare un'ala della struttura. Le nostre stanze sono in regola, risponde la casa di riposo. E al Senato il voto sul disegno di legge del governo che vieta la sospensione dell'alimentazione in casi come quello di Eluana è stato fissato per domattina entro le 9:30. I radicali presenteranno più di 1000 emendamenti. Nel Partito Democratico Veltroni lascia libertà di coscienza. Danilo Coppola condannato a 6 anni di reclusione per il fallimento di una sua società, la Micop. Oltre all'immobiliarista romano, condannata a 4 anni, Daniela Candeloro, commercialista della società. Un crack da 13 milioni di euro avvenuto alla fine del 2006. Crisi dell'auto, questa sera l'Europa ne discuterà a Bruxelles, mentre la presidenza di turno ceca pensa ad un vertice straordinario. Intanto la casa giapponese Nissan ha annunciato una maxi ristrutturazione per la crisi. Si prevede il taglio di 20.000 posti di lavoro. 130 vittime, ormai una strage quella provocata dagli incendi che stanno devastando il sud-est dell'Australia, colpiti almeno 30.000 ettari di territorio, distrutte oltre 750 case, intere cittadine. Sono una trentina i grandi incendi che continuano a divampare fuori controllo. Israele domani al voto, per la prima volta il premier uscente Olmert si pronuncia a favore della centrista Livini, ma avanza la destra, Netanyahu è il favorito e l'ultraconservatore Lieberman avanza, laburisti in rotta. E oggi ancora 2 raid israeliani contro altrettante postazioni di Hamas si sono registrate. È stata una risposta ai lanci di razzi provenienti dalla striscia di Gaza, ma come dicevamo nei titoli, l'attenzione della popolazione israeliana e di tutta l'area naturalmente è concentrata sulle elezioni di domani. In Israele si vota tra meno di 24 ore, ma solo oggi il premier Ehud Olmert si è pubblicamente augurato la vittoria di Tzipi Livni, suo attuale ministro degli esteri e leader del suo partito, Kadima. Olmert oggi ha ottime parole per la Livni. È una candidata che può dirigere Israele, dice, è dotata di sensibilità e saggezza, ma la storia dei rapporti tra i due è costellata più di scontri che di lusinghe, e negli ultimi tempi in particolare su durata e intensità dell'offensiva contro Hamas e successiva tregua. Gli ultimi sondaggi danno la vittoria al volto storico Benjamin Netanyahu del partito di destra Likud, ma centinaia di migliaia di israeliani restano indecisi e la Livni ragionevolmente spera ancora. Chiunque si troverà a governare comunque dovrà fare i conti con una Knesset, un parlamento molto spostato a destra, perché Israel Beitenu, il partito della destra radicale di Avigdor Lieberman, sta andando fortissimo e negli ultimi sondaggi ha scavalcato i laburisti dell'ex premier ed ora ministro della difesa Barak, che per la prima volta nella loro storia potrebbero tracollare e diventare il 4º partito del paese. Contro Lieberman, finora considerato solo un leader rozzo e pittoresco, si sono scagliati gli ortodossi sefarditi dello Shas. Votare per lui, dicono, significa rafforzare Satana e il male. Laura Bettini, GR24, Il Sole 24 Ore. E le elezioni in Israele sono attese anche nel mondo arabo, dove al voto andrà anche un altro paese chiave, l'Iran. La candidatura dell'ex presidente Khatami alle presidenziali iraniane e il voto israeliano di domani sono in primo piano sulla stampa araba di oggi. Sul voto in Israele i maggiori quotidiani danno per scontata l'affermazione della destra. Israele sceglierà tra tre falliti e un fascista, titola il libanese Al-Safir, che preannuncia per la destra una storica vittoria dettata dalla paura. Sul voto iraniano di giugno, grandi auspici per un'affermazione di Khatami a danno dell'attuale presidente Ahmadinejad. Per Al-Hayat, l'influente Ayatollah Rafsanjani potrebbe rappresentare un sostegno decisivo per il candidato moderato. Minoranze etniche, studenti e donne sarebbero invece, secondo la TV Al-Arabia, le armi principali di un Khatami che, stando ad Al-Sharq Al-Awsat, ha avuto l'ok per la sua candidatura dalla guida spirituale della rivoluzione, il grande Ayatollah Khamenei. Adil Fatah Ali, GR24, Il Sole 24 Ore. Restiamo sui giornali stranieri con il nostro Michele Pignatelli, buongiorno. Buongiorno, detto che gli incendi in Australia con oltre 100 morti occupano la vetrina di molti quotidiani internazionali con fotonotizie che illustrano i danni causati dalle fiamme, mi ricollego subito all'argomento Israele, voto in Israele. Siamo entrati nelle ultime ore della campagna elettorale per le politiche di domani e diversi quotidiani danno spazio a approfondimenti e notizie sull'argomento. Vi cito la New York Times: un estremista guadagna terreno nella corsa israeliana. Sulla stessa lunghezza d'onda il titolo dell'International Herald Tribune: un esponente della destra israeliana intercetta le paure degli elettori. La figura su cui i quotidiani si concentrano è Avigdor Lieberman, esponente del partito di estrema destra Israel Beiteinu, che è dato dai sondaggi addirittura al terzo posto e quindi può giocare il ruolo di ago della bilancia in quello che il Financial Times chiama il dilemma elettorale israeliano. Siamo sul Financial Times e allora citiamo l'apertura: Merkel in azione per rimpiazzare una carica di vertice. Stiamo parlando di Germania e di una crisi all'interno del governo innescata dalle dimissioni del ministro dell'economia Michael Gloss. È una notizia naturalmente che ha ampio spazio sui quotidiani tedeschi. Vi cito la Frankfurter Allgemeine Zeitung: Gloss mette in imbarazzo Seehofer, il leader della CSU, e con lui tutto il governo Merkel. I quotidiani francesi aprono sull'economia, il piano per l'auto, settore critico e anche qui strategico. Vi cito Le Figaro: 6 miliardi di euro per l'auto francese. Sono prestiti a tassi agevolati, in particolare per Renault e Peugeot Citroën. E già che stiamo parlando di economia, torniamo un attimo oltreoceano. Apertura del Wall Street Journal: aiuti privati alle banche. Queste sono le indiscrezioni sulle novità che dovrebbero essere presenti, peraltro senza per adesso molti dettagli, nel nuovo piano del segretario al tesoro americano Timothy Geithner. Prima di chiudere vi lascio con i quotidiani spagnoli e una notizia dedicata all'Italia, che ha dato all'Italia ampio spazio anche sui network internazionali. Titolo di El País: Berlusconi e il Papa raddoppiano l'offensiva sul caso Eluana. È tutto. Grazie a Michele Pignatelli. Siamo tornati anche noi alla notizia con la quale abbiamo aperto il nostro giornale. E termina qua questa edizione del GR Extra Large. Alessio Maurizi, Anna Migliorati in studio, il coordinamento di Daniele Biacchessi, in regia Pietro Lacorte. L'appuntamento come sempre per domani a partire dalle 13, extralarge@radio24.it se volete scriverci. Buona giornata. GR24, Il Sole 24 Ore, direttore Gianfranco Fabi.